tu parli sia di desiderio che di bisogno, che sono un po' due parole chiave in generale dell'intervento, intervento in termini di progetti, iniziative, politiche, programmi sulla popolazione. Spesso si usa bisogno, dove per bisogno si considera una condizione di necessità rispetto alla quale l'intervento pubblico, quindi il cantone, il comune, organizza un servizio, dà delle risposte. Però giustamente tu nel titolo del tuo lavoro ti metti anche la parola desiderio, e secondo me quella è una chiave fondamentale. Cioè, ho l'impressione che in questo momento, e soprattutto per quanto riguarda i ragazzi, più che la parola bisogno, su cui tradizionalmente si pensa all'intervento sulla popolazione, ci sia necessità di usare il termine desiderio. Qual è la differenza? Proviamo a immaginare. La differenza è che dentro desiderio io leggo un potenziale più ampio, più aperto, meno legato alla sopravvivenza individuale e più legato al progetto, alla fantasia, alla creatività dei ragazzi. E quindi quando ragioni in termini di politiche giovanili non devi semplicemente porti quali risposte posso offrire ai bisogni essenziali di un ragazzo, ma la logica probabilmente è molto più quella: come posso rendere un ragazzo o i ragazzi del mio territorio così liberi da poter esprimere, o meglio formare, poi esprimere desideri, che vuol dire che tu non sai prima la risposta, mentre sui bisogni lavori su degli schemi già fatti. C'è bisogno di una casa, c'è bisogno di mangiare, c'è bisogno di istruzione, così via. Sul desiderio, evidentemente, per quanto tu sia adulto o sia un'istituzione, non sai prima che cosa. Allora la tua non è la risposta a uno schema, ma è creare le condizioni perché quell'elemento, il desiderio, possa liberarsi, possa formarsi e trovare un proprio oggetto. Potrà anche essere la casa, potrà anche essere la propria formazione, ma potrebbe essere un viaggio, potrebbe essere aggregarsi con degli altri, potrebbe essere fare un cineclub, potrebbe essere realizzare un sogno personale di attore teatrale. Quindi su questa roba del desiderio, secondo me, è importante che il tuo lavoro appunto lo colga come un elemento forte. Che io anche nella parola desiderio la vedo anche molto legata a quello che è l'animazione, nel senso che portare l'anima, portare l'essenza delle persone, la voglia di fare, di seguire i propri desideri, che forse oggi nei bisogni si collocano unicamente i bisogni primari, dimenticandosi che una persona per vivere non ha bisogno solo di mangiare e di una casa, ma ha bisogno di soddisfare anche i propri desideri, la propria spinta vitale. E spesso vediamo che sì, ci sono tante persone che sono vive e che rispondono ai loro bisogni primari, ma c'è anche una certa debolezza della vita, manca quell'energia, quel sorriso, quella voglia di stare al mondo, e penso che in un paese come la Svizzera questo si possa anche vedere. E i giovani sono le persone che nel loro passare all'età adulta devono continuare a rincorrere i propri desideri per diventare anche degli adulti che hanno ancora ben presente in loro il senso del desiderio. L'altra cosa che secondo me è esattamente parallela a questa, ed è su un piano proprio più materiale, di oggetti veri, di lavoro, delle politiche giovanili, è che credo sia centrale in questo ragionamento, è un po' la differenza fra spazi e luoghi. Il luogo è finalizzato, è un posto che ha una certa funzione, è sempre un luogo per far qualcosa. Tendenzialmente gli adulti vorrebbero offrire dei luoghi pensando di definire e determinare prima le funzioni essenziali di questi posti. Lo spazio è invece un posto dove la finalizzazione, dove la destinazione precisa d'uso non è data a priori, ma è in teoria una situazione, posto fisico, in cui chi arriva, chi lo abita, può definire meglio, quindi abitare, destinare, quella situazione per, credo, liberare il desiderio, sprigionare la propria energia, la propria vitalità. Allora, così come probabilmente non bisogna solo ragionare in termini di bisogni sui ragazzi, altrettanto credo non bisogna solo ragionare in termini di luoghi, ma io vedo proprio un po' un parallelismo fra il desiderio e quindi la libertà espressiva, l'anima che esce, come tu dici, e gli spazi, quindi semplicemente dei contesti in cui non è tutto già scritto e soprattutto non è scritto dagli adulti. In questo senso credo che i centri giovani abbiano un po' questa funzione. Non è come il cinema, il bar o la discoteca, dove tu entri e sai cosa devi fare. I centri giovani in teoria sono scritti da chi li abita, sono definiti e destinati da chi li abita, quindi i ragazzi, soprattutto i ragazzi. Pensando proprio a quali sono i dispositivi, cioè gli strumenti che consentono di animare, cioè di, evidentemente consentono di aprirsi anche al desiderio nei ragazzi. Perché è più semplice creare luoghi che creare spazi, mi sembra, ed è più semplice ragionare in termini di bisogni che ragionare in termini di desideri. Forse oltre che più semplice, anche più rassicurante, nel senso che si ha un'idea di quello che si sviluppa lì, invece aprirsi al desiderio, aprirsi alla libertà, significa anche aprirsi un po' all'incognita, a quello che può nascere e svilupparsi spontaneamente. E anche i centri giovanili, proprio ragionando in termini di spazi piuttosto che di luoghi, hanno forse già un'etichetta, questo giovanile, in cui io mi domando se tutti i giovani si vogliono definire tramite la parola giovani o se sono invece molto di più, sono persone che stanno proprio anche passando dallo statuto di ragazzo o di giovane o quello di adulto. Non dovrebbe essere l'essere giovane il fattore che unisce o che dà vita a qualcosa, ma sono probabilmente altri desideri, altre cose da cui può nascere il... In fondo potremmo anche immaginare che l'aggregazione ci sia per interessi, per passioni. Ecco, l'altra parola che mi viene da pensare in questa sorta di lessico, no, che costruiamo, è la parola passione. Mi verrebbe da dire più passione che interesse, perché l'interesse mi sembra una roba un po' più fredda, un pochino più degli adulti, no? Mentre passione mi sembra una parola che ha dentro quell'energia che dicevi tu, anche quell'elemento irrazionale, un po' fuori controllo, che però è il suo motore interno, è ciò che gli consente di girare così velocemente e quindi superare delle difficoltà quando non hai magari i soldi per comprarti qualcosa, non hai il tempo perché devi andare a scuola. Insomma, quando tu ti metti di notte a leggere un certo libro, oppure dedichi le tue serate o i tuoi fine settimana a suonare col tuo gruppo musicale anziché fare altro, beh, lì appunto ci leggo la passione. In effetti questa cosa, se i centri giovanili fossero centri di passioni, allora in effetti per esempio potrebbero esserci età diverse, che forse non farebbe neanche male. In fondo per esempio le associazioni sono fatte da persone di età diverse che hanno in comune un oggetto che li unisce, ma poi ci può essere una persona di 50 anni come uno di 18, insomma non è una cosa strana, insomma, questo dello stare insieme per età e provenienze, ma accomunati da una passione. E che posto hanno secondo te i sentimenti in tutto questo? Io ho sempre pensato che un luogo che funziona, un centro che funziona, dovrebbe essere un centro anche dove ci si innamora, cioè dove le possibilità di incontro con l'altro, col simile o col dissimile, così come avviene in associazioni dove spesso ci si innamora. Moltissime persone che fanno associazionismo si innamorano e poi decidono di vivere assieme, di sposarsi, così. Allora ho sempre pensato, un centro giovanile non tanto fare educatore e ragazzo, ragazzi, insomma, ma proprio per ragazzi, che sia un luogo dove, oltre a non essere finalizzato, oltre quindi essere uno spazio e non un luogo, oltre a consentire di liberare il desiderio più che semplicemente rispondere ai bisogni, per esempio dia una cittadinanza, una possibilità di esistenza ai sentimenti molto, molto forti. Se tu pensi per esempio ai servizi o ai luoghi di lavoro, raramente i sentimenti li abitano. Cioè si tende a dire che devi controllarti, devi avere una modalità tendenzialmente neutra rispetto alle relazioni, certo senza offendere, ma anche senza arrabbiarti, senza scaldarti troppo e così via. A me viene da pensare che dovrebbero essere abitati di più dai sentimenti. In questo senso quello che è importante è anche il calore che possono sprigionare direttamente questi luoghi, questi spazi, che spesso si vuole anche una certa produttività da questi spazi, nel senso vedere che c'è attività, ma è l'attività che si giudica secondo i canoni di un certo mondo, quindi è il fare. Quanti eventi si fanno, quanti concerti, quante... Esattamente, invece a volte è solo il bisogno di uno spazio dove ci si possa sedere uno accanto all'altro e intessere delle relazioni, e il concerto ci sta bene, ma unicamente perché è la scusa per cui tutti vengono lì, e poi spesso nessuno sta guardando il concerto o la proiezione del film, è la scusa per ammonticchiarsi sui divani uno sopra l'altro e tirarsi popcorn. Però in questo c'è di bello che è la ricerca del contatto, perché anche per esempio il contatto fisico non c'è, siamo molto separati gli uni dagli altri. Invece questi sono spazi dove buttano lì delle scintille, delle occasioni che poi diventano il momento per stare vicini, ma anche fisicamente, quello lo si vede spesso. L'altra cosa che mi veniva in mente era questa. In genere il mondo adulto e la vita pubblica, soprattutto in società di mercato come le nostre, sono fatte da opzioni di scelta. Al cinema puoi scegliere fra un film e l'altro, questo quindi vale sul divertimento, vale sul lavoro, puoi scegliere se fare, dico, una banalità, il medico, l'ingegnere e così via. Io credo che se penso ai centri giovani e se penso anche al tuo lavoro di ricerca, io ho l'impressione che noi dobbiamo abituarci a abbandonare questa logica della scelta, che è la logica con cui cresciamo in realtà come consumatori, dove il nostro apparente potere di consumatore, sovranità, insomma, la nostra apparente libertà è scegliere quale marca fra due aranciate. Cosa dovrebbe succedere qua, se parliamo di desiderio, se parliamo di spazio, se parliamo anche in qualche modo credo di sentimenti? Quando scegli, le opzioni sono già determinate. Io credo che sui ragazzi, quei ragazzi, occorra immaginare un mondo e quindi anche uno spazio, quindi anche una modalità di confronto con loro, in cui le opzioni a volte non si scelgono, ma si inventano, si creano. E questo vale per il lavoro, vale anche per le destinazioni d'uso e vale per tante altre cose. Cioè, quando ci si confronta con i ragazzi, occorre abbandonare la logica del vuoi questo o quell'altro, ma diventa un fanne quello che vuoi, magari dando ovviamente delle regole su che cosa uno può non fare o fare, però non è semplicemente scegliere fra due opzioni, è inventarne una terza di opzione. Se penso per esempio al mondo del lavoro, oggi credo che molti ragazzi si inventino lavori mettendo insieme pezzi di tanti lavori diversi, o che non hanno un nome, perché non sono né il medico né l'ingegnere. E questo sta alla capacità anche della società di farsi rigenerare dai ragazzi. Ecco, credo che questa cosa qui, cioè provare a immaginare un rapporto con i ragazzi in cui non c'è solo da scegliere fra due opzioni, ma c'è anche da imparare da loro cosa non è stato ancora pensato e fatto, e ce lo diranno loro che cosa altro si può fare. Non so se nella tua esperienza di lavoro con i ragazzi questa cosa è verificata. Adesso stavo pensando più a quando si fa con quello che si ha a disposizione, quindi la capacità di inventiva a partire dalle poche cose che si hanno per poi costruire qualcosa che può essere dalla pista di ballo improvvisata, una cosa semplicissima, a qualcosa già di più elaborato. Al contempo io non so, fa comunque parte della mia esperienza vedere anche la difficoltà sempre maggiore a inventare, perché se prima si era comunque lasciati a una certa libertà e quindi pian piano si decideva come occupare il tempo libero, quindi ci si inventava, era per inventare, per fare, per riempirlo se avevi voglia, per guardare il cielo, se avevi voglia di guardare il cielo. Mentre adesso quello che mi sembra è che, essendo sempre tutto più strutturato, sempre tutto più organizzato, è una capacità che si perde. E questo magari l'ho visto con i bambini più piccoli, che se prima li potevi lasciare in un prato e facevano quello che volevano, se tu sei in una colonia e li lasci in un prato e gli dici giocate, vengono da te e dicono che gioco facciamo? E quindi questo è un ulteriore elemento che fondamentalmente serve agli adulti, ai genitori, alle istituzioni, per riflettere anche su quello che è il percorso educativo. In fondo un giovane, prima di essere giovane, è stato bambino. Certo. E quindi... No, hai ragione. Senti, e questo mi viene a pensare rispetto a quello che dicevi, in fondo... I centri giovanili credo che in parte dovrebbero proteggere o posticipare il più possibile questa logica, che è poi la logica della produzione, quello di destinare ogni momento a una funzione precisa che è codificata, e quindi creare anche nell'infanzia, no, il palinsesto delle attività, andare a nuoto, andare a tennis e così via. E mi viene in mente un altro dei fondamentali del lavoro educativo, che è creare i vuoti. In fondo i centri giovani, un centro giovane dovrebbe avere anche questa forza, dovrebbe riuscire a avere la forza e essere autorizzato, essere riconosciuto come tale, essere un luogo di vuoti, non solo di pieni. Quindi non tutto scritto, sempre torniamo a quella cosa lì, siamo sempre dentro il desiderio, dentro il non del bisogno, la logica del spazio e non del vuoto. E questa situazione di vuoto che credo sia anche quella fondamentale per la creatività. E a questo punto allora ritorniamo anche all'intero titolo, che è aprirsi al desiderio, perché attorno a questo lavoro che possono fare magari anche i centri giovanili, bisogna creare questa apertura necessaria nella società, nei politici, nel mondo adulto che decide fondamentalmente delle sorti di questi spazi, decide se aprirli, quando aprirli, quanto aprirli, a volte anche cosa bisogna, quali contenuti di questi spazi, di questi luoghi. E io trovo che quando si parla di queste realtà non ci si può solo soffermare a focalizzare lo sguardo sul centro, perché se non guardiamo quello che sta attorno dimentichiamo una parte importante, perché spesso anche i cambiamenti vengono da piccole iniziative in periferia che portano una nuova spinta, una nuova idea verso il centro, cioè verso quella parte della popolazione che è più abituata a pensarla in una determinata maniera, e portano una spinta di apertura in più, perché in fondo, essendo tutti membri di una stessa comunità, se proponiamo qualcosa per i giovani e lasciamo questa apertura, ne trarremo arricchimento tutti in uno scambio. Allora, proviamo a essere molto onesti. Tu sai che se tu hai uno spazio, hai un gruppo di ragazzi che tu vedi e incontri, e gli dai in mano delle chiavi e dici questo è vostro, fatene quello che volete, tu non vedi necessariamente in quel luogo fiorire la massima libertà espressiva, la fantasia al potere, la creatività giovanile. Potrebbe anche essere che lì, come dire, non si sa cosa fare, si coltiva la noia, non nasce nulla in realtà, perché poi credo che l'intento ultimo sia essere generativi, cioè favorire la nascita di qualcosa. Uno può accettare questo dato come elemento naturale, però mi chiedo anche, forse questa apertura al desiderio, forse questa libertà espressiva, forse questa capacità di marcare il territorio, di in qualche modo lasciare il segno in uno spazio, va allevata. Cioè non lo possiamo dare come un dato di DNA per cui tu hai 17 anni, quindi sai disegnare, sai suonare, hai voglia di fare, hai voglia di scrivere, così. Non è vero questa cosa qui. Sarebbe bello, ma non è vero. Secondo te com'è che funziona? Cioè com'è che si alleva il desiderio, si coltiva questa parte più libera, più espressiva, più creativa e non si rischia la passività, la paralisi di fronte a una libertà che sembra forse eccessiva, perché mai nessuno ti ha dato delle chiavi in mano? Da una parte tornerei ancora ai sentimenti, agli obiettivi. Non so, posso parlarti di quello che io ho visto. Cioè io nel bellinzonese ho visto più centri dati chiavi in mano a dei gruppi di giovani. Quello che ho visto è che dove non c'è una riflessione, un ideale, una spinta altra, queste sono esperienze che finiscono nella noia, nel non fare niente, perché offrire per esempio un concerto agli altri, offrirlo per offrirlo, cosa ti dà? Niente. Fare un'attività per fare un'attività non ti dà niente. I posti che sono funzionati con dentro anche delle persone giovani sono funzionati perché volevano esprimere anche un pensiero, anche qualcos'altro. Allora facevano il concerto perché raccoglievano i soldi per sostenere un'associazione in Africa, perché fanno il ragionamento che c'è qualcosa che non va lì e che bisogna appoggiare anche lì. È una delle questioni dell'animazione, quando spesso ti dicono fai l'animazione per fare l'animazione, per mettere su un po' di musica. È che dietro l'animazione, dietro ogni piccolo gesto che può essere bere il tè in piazza e basta, c'è dietro un pensiero, c'è dietro qualcosa a cui si vuole arrivare, che può essere, chiaramente può essere dall'aspetto politico, che questo è un elemento che sicuramente il Ticino è stato toccato tanto dal fatto dei centri di aggregazione a carattere politico. Oppure può esserci dietro, per esempio, la volontà di far rivivere una comunità e di vedere che le piazze non sono più vuote e che da lì si torna a instaurare dei legami sociali. Dietro l'animazione ci possono essere tante riflessioni, tante filosofie, ma quello è importante ed è una sfida anche da accettare, perché se si accetta il desiderio, si accetta l'incognita, si accetta anche che sarà un percorso che porterà a qualcosa di nuovo. Che non è fine, l'attività non è fine a se stessa, le chiavi date in mano non sono date in mano fine a se stesse, ma sono date in mano perché c'è una voglia di fare qualcosa, c'è una voglia di esprimere qualcosa che sono anche sentimenti, ideali, utopie, in qualsiasi senso, in qualsiasi direzione, tutte con lo stesso diritto di cittadinanza. Ecco, questa cosa secondo me è importante, questa cosa dell'idealità, in fondo. Questo fatto mi sembra un classico del lavoro educativo. Tu fai qualcosa ma hai in mente un'altra cosa, che non è solo quello che stai facendo, no? L'idea del dispositivo educativo, tu hai un oggetto che può essere l'organizzazione di un concerto, di una serata, ma in fondo a volte il film o il concerto è un pretesto per stare insieme, discutere, ragionare, portare al centro attenzione a cosa, consentire ai ragazzi di misurarsi in qualcosa, verificare le proprie abilità, sentirsi gratificati, riconosciuti, creare aggregazione. No, questa cosa non è mai il titolo, è il sottotitolo, a volte è quello che hai in mente tu e magari non lo espliciti neanche perché è il tuo mestiere, no? Questa dimensione ideale secondo me è importante, ecco, magari a monte, magari a valle, magari ne parli dopo, no? Averlo fatto, che cosa è successo, cosa abbiamo scoperto. Magari a monte invece è proprio un gruppo di discussione che ha in mente quello subito e lo fa. Su questa cosa qui, su questa dimensione ideale, quindi la possibilità di ancorare, cioè agganciare quello che fai, ha un aspetto politico, ha una logica culturale oppure di solidarietà e così via. A te sembra ci siano dei cambiamenti in atto, cioè ci sia una difficoltà in questo momento a trovare dimensioni ideali, perché molti lo sostengono, no? Questa cosa della difficoltà oggi a trovare dimensioni ideali. Secondo me c'è una difficoltà perché c'è un tentativo abbastanza evidente di soffocare questa voglia di trovare delle dimensioni ideali. Una scuola lascia spazio al nozionismo, ma non lascia spazio al cercare il proprio ragionamento, le proprie domande, i propri valori. E quindi c'è già quell'aspetto lì. In più, probabilmente anche a livello di grandi ideali, partiamo già dal presupposto che a destra ci sono stati brutti e cattivi e a sinistra anche, quindi non facciamoci ridere, non andiamo verso questi ideali. In fondo, se vogliamo leggere la società, quello che si chiama il pensiero unico non è che è chiamato pensiero unico a caso, perché è l'unico pensiero accettabile. Secondo me, non so, qua potrei tornare alla formazione di animatore. A Losanna, quello che io ho potuto vedere, sono entrata giusto nella transizione con il Trattato di Bologna. Se prima la dimensione dell'animazione come animata da valori ideali di qualsiasi tipo è stata lentamente trasportata in un ambito di impresa sociale, di guadagno e profitto, e quindi una formazione che anche per il Consiglio d'Europa è al servizio del cambiamento sociale, al servizio delle minoranze, al servizio di chi ha voglia che qualcosa si muove nel mondo, diventa qualcosa nuovamente al servizio del pensiero unico. E io trovo che in Ticino ci sia stata da qualche parte una polarizzazione, nel senso che da una parte c'è un centro socioculturale che ha mosso determinate cose a un estremo e dall'altro accanto sono sorti questi centri giovanili con i municipi terrorizzati dal fatto che potessero diventare dei centri autogestiti, dove non si sa bene cosa di così grave possa succedere in questi centri autogestiti, perché non è mai successo nulla di grave. E quindi anche gli animatori, a mio parere, spesso rivestono solo un ruolo di occupatori del tempo libero, ma non c'è una minima riflessione dietro il loro agire. L'animazione è strettamente legata alla riflessione, alla filosofia, al pensare perché si fa una cosa, non è semplice azione. Questa cosa appunto del pensiero unico, dello schiacciare, del non riconoscere la parte come più espressiva, libera nei ragazzi, anche magari a partire dalla scuola. Io credo intanto che c'entra anche molto il consumo, cioè la logica di vita come consumatori sia qualcosa che ti disabitua un pochino, intanto a esercitare il desiderio, perché in realtà quello che desideri è spesso ciò che è previsto e prescritto tu debba desiderare sulla base di una segmentazione del mercato in target, e quindi in continuo lavoro di ricerca sui desideri nel senso delle voglie delle persone. Quindi in questo ci sia una perdita di libertà che va forse anche oltre la scuola e oltre la politica. Però appunto mi chiedo come possa essere questo lavoro maieutico di aiutare le persone a tirare fuori questa parte qui. Per esempio, a me sembra che una cosa che continui a funzionare molto sia quello di dare ai ragazzi opportunità, occasioni di vedere, come dire, di realizzare qualcosa in cui si ritrovano a decidere, inventare o scegliere, avere delle risorse in mano e poi vedere davvero realizzato qualcosa, e questo qualcosa è una dimensione pubblica per cui per esempio ci si confronta anche con gli altri, non solo con se stessi, cioè non è come fare il compito a scuola, è qualcosa che lo si fa per gli altri. Allora mi chiedo se effettivamente il centro di gioia non possa essere una macchina in grado di produrre questo tipo di formazione ai ragazzi, molto più di quello che fa la scuola, che tutto sommato tende a isolare le persone, a metterle di fronte a prove individuali, mai di gruppo, collettive, e a verificare delle abilità rispetto allo schema prescritto, e mai a, come dire, a verificare la, mai o molto poco a verificare la creatività. In fondo si lavora per compiti, il tema sempre un titolo, il problema sempre un coso, quindi è tutto molto legato alla risposta a qualcosa di definito. Io sono sicura che i centri giovani lì potrebbero fare molto, e anche che dietro centri giovanili si nasconde anche degli spazi con aperture limitate, chiusi durante le vacanze estive, che assicurano anche poche prospettive, spesso professionali, agli animatori, che quindi spesso cambiano costantemente, e quindi sono, a mio parere, spesso anche in campo giovanile sono quegli esperimenti, questi progetti fatti a metà, senza le risorse necessarie perché abbiano davvero successo, perché anche con i ragazzi la relazione di fiducia con qualcuno si instaura nel tempo, non si può pretendere che dall'oggi al domani uno dica ah, bella lì, mi sta anche simpatico. In più lo stesso lavoro, quindi di accompagnare a scoprire quali sono le tue capacità, i tuoi desideri, far il suggerire ma guarda che puoi, facciamo questo e questo, sono processi lunghi che hanno bisogno di tempo, di energie, e in questo senso quelle che adesso sono le figure dell'animatore, l'animatore è un facilitatore, non è quello che fa per, può fare con o fare in modo che quell'altro faccia anche da solo, è questo il ruolo dell'animatore. Però io sono più che certa che con il giusto peso dato a progetti simili si otterrebbero risultati più interessanti che anche a lungo periodo, un'esperienza di crescita in un centro giovanile, di crescita intendo quindi di assunzione di responsabilità, di possibilità di proporre, di scontrarsi con la difficoltà che certe cose magari non riusciamo neanche a farle, ma di aver provato a farle, di aver capito perché non riusciamo a farle. Questi sono poi strumenti che una persona ha acquisito per tutta la vita e quindi le potrà utilizzare nel suo contesto familiare quando va a fare una gita, piuttosto che sul lavoro, piuttosto che per l'insieme della collettività. Quindi sono dei luoghi di formazione fondamentali. Formazione, sì, però di quella formazione, come si può dire, spontanea, non direttiva, di accompagnamento, di crescita, come tra l'altro a me una delle cose che mi ha sempre stupito delle politiche giovanili, Ticino c'è questa legge, fino ai 30 anni hai il diritto a farti accompagnare per determinati progetti, che hanno una valenza poi che si apre verso tutti i giovani. Dico, ma io ho voglia di crescere, di imparare, di proporre, spero che avrò voglia fino ai 70 anni di farlo. Forse un invito che adesso facciamo ai giovani, perché per colmare anche le nostre di frustrazioni, il padre che vuole il figlio dottore perché lui non ha potuto studiare, però i giovani hanno un'età un po' più bassa di quella degli adulti, però possono, come si diceva prima, avere la stessa passione di un'altra persona. No? Sì, un'altra cosa che mi piaceva capire con te, il rapporto fra il dentro e il fuori, perché secondo me questo è un po' un nodo anche del rapporto con i ragazzi. Sostanzialmente cosa sta succedendo? Io ho l'impressione che in generale si stiano in qualche modo rendendo più spesse le pareti di tutti gli involucri dove sono i ragazzi, quindi l'idea è sempre più quella della casa, del luogo protetto, della sicurezza, della salvaguardia, e quindi ci sia un pochino sotto traccia l'idea anche che un luogo per ospitare i ragazzi, forse considerando i ragazzi in qualche modo come dei bambini un po' più grandi, debba soprattutto essere protetto. I centri giovani sono dei luoghi di spazi, chiamiamolo spazi, ma comunque con delle mura che separano il dentro dal fuori, in cui alcune cose avvengono, non tutto, ma insomma avviene dentro. Io ho l'impressione che sul dentro e sul fuori dobbiamo farci un ragionamento, nel senso che forse solo dentro non basta. Se tu hai una persona formata solo in luoghi protetti, avrai una persona tendenzialmente, come dire, facile al panico, timorosa dei contatti, incapace di improvvisare, a disagio in qualunque situazione pubblica, in enorme difficoltà di fronte a ogni esperienza di viaggio e via così. Se tu hai una persona solo formata in luoghi pubblici, in aperte, immaginiamo le vite anche, come dire, da clochard o di chi è costretta sempre a stare all'aperto, beh, forse qualcosa ti manca comunque in termini di possibilità di trovare l'intimità, gli affetti, un minimo di protezione, la possibilità di raccogliere le tue cose attorno a te, di avere qualcosa di tuo e così via. Mi chiedo, i centri giovani, che rapporto secondo te potrebbero avere con l'esterno e che rapporto potrebbero avere col proprio interno? Quanto proteggono, quanto preparano all'esterno, quanto scambiano con l'esterno, quanto portano dentro l'esterno nell'interno? O quanto vogliono portare sull'esterno ciò che fanno lì dentro? Come li vedi in una situazione di rapporto col territorio? In una vista un po' distante, sono comunque realtà chiuse, che l'osmosi con il territorio accanto non funziona mica tanto. E quindi all'interno di un centro giovani trovi i giovani e l'animatore e in queste dinamiche da centro giovanile, ma non ci sono molti scambi a questo punto. Però sto pensando con il resto, con tutta la realtà che sta fuori. Sono cose che poi magari cambiano con alcuni progetti che ci sono stati adesso, dove si prende il territorio all'aperto e si porta fuori il centro giovanile, dove finalmente può incontrare la vita fuori e la vita fuori può incontrare il centro giovanile, e lì avvengono degli scambi. Poi l'altra cosa interessante è, che però sarebbe più bello poterla approfondire, è che spesso si sente dire da altri ragazzi che non vengono al centro giovanile, come se al centro giovanile in molti posti venissero i giovani peggio messi, cioè che il centro giovanile quindi fosse un ricettacolo di questa educazione anche all'esterno, no? E questo secondo me sarebbe proprio interessante approfondirlo, perché io ho lavorato in diversi centri e sono tutti ragazzi comunque interessantissimi, che hanno un sacco da dare, che curiosi, che guardano, che mettono in discussione, che provocano, che testano, che comunque molto vitali e frizzanti. Però al contempo magari hai meno l'opportunità di confrontarti anche con altri ragazzi più tranquilli, no? Che quindi vivono di più, quindi il centro giovanile è chiuso, protetto, ma rientra in quelli che stanno fuori, mentre quelli che stanno in casa, nella zona super protetta, che poi magari sono quelli che poi vanno anche al centro commerciale piuttosto che qua e là, ecco, con quelli non c'è un grande scambio. Mi piacerebbe approfondire questa riflessione. Sì, perché sono due forme. Il rischio potrebbe essere proprio quello di creare dei ghetti, delle situazioni, ghetti o comunque situazioni di eccesso di omogeneità. Questo è un problema, forse anche un problema dei centri giovani, se si forma una fama attorno. La questione dell'interno e dell'esterno mi viene in mente perché se tu pensi a un cinema e un teatro, il cinema e il teatro devono avere un senso di enorme separazione dall'esterno, perché il buio in sala e l'incantesimo dello spettacolo teatrale o cinematografico si basano proprio sull'idea di di essere improvvisamente entrare in un meccanismo di ipnosi, no? di incanto che hai con la visione. Tant'è vero che per quanto ci sia il cinema all'aperto, non c'è cosa più fastidiosa quando c'è la luce del sole, quando non è ancora buio abbastanza per vedere bene il film, ma è proprio tutto che ti dà fastidio, il fatto che vedi tutto, che insomma lo schermo è in mezzo ai palazzi, c'è qualcosa che non ti permette di entrare in questa fantasia. Sui centri giovani mi chiedo se debba esserci questo o non debba esserci invece in qualche modo più trasparenza con la città, e quindi se per esempio proprio i centri non debbano formare un po' più al rapporto col territorio che all'isolamento da esso, più a come avamposto di scoperte che nido, che tana. Elaborando una nuova teoria, prendiamo il fatto che siamo immersi in questa società dominante, cultura dominante, così. Una parte di questi ragazzi, chiamiamoli ragazzi che stanno un po' di più sulla strada, sono quindi sempre confrontati a determinate dinamiche che vanno da quello che ti scaccia perché stai accendendo il motorino, al fatto che sei fuori, che piove, che fa freccia, a una serie quindi di dinamiche che sono interessanti, che loro cercano, perché da qualche parte rifiutano la logica più quotata, più abituale. Si stancano e nel centro giovanile trovano un rifugio, un attimo per riposarsi, dove nessuno gli chiede niente, gli chiede troppo. Non devono rendere conto a nessuno, anzi magari fanno anche una partita a calcetto al caldo, hanno l'occasione di scambiare un attimo due parole e così. Dall'altra parte abbiamo la via tracciata, in cui si sta dentro, in questa via tracciata, dove è chiaro è più facile stare semplicemente in questa via tracciata, perché non sei continuamente affaticato dalla lotta per essere te stesso, che ti senti un attimo differente da quella che è la via tracciata, e quindi ci stai dentro abbastanza bene. Trovo che a volte non si valorizzi questo chiamarsi fuori, che è interessantissimo questo chiamarsi fuori, perché è il coraggio di dire no, voglio qualcosa di diverso, sto cercando in me stesso qualcosa di diverso. Perché poi anche tutta questa paura che la delinquenza, così nel Ticino, io ho visto un paio di studi che facevano vedere poi chi era magari da giovane in determinate strade, da adulto era poi lì tranquillo, non c'è nessuno che è successo chissà che cosa. Quindi anche questo terrore della vita della strada a volte è portato all'estremo, no? Senza bisogno. E a questo punto io inserirei un excursus sulla presunta neutralità, sulla presunta via di mezzo che bisogna sempre mantenere. Nel senso, questo io l'ho visto a scuola, piuttosto che fondamentalmente ci stanno facendo credere che noi viviamo in una società democratica equa, dove ci sono per tutti le stesse scelte, dove tutte le opzioni sono lì, quando invece noi stiamo vivendo una realtà che è la cultura dominante, che è una certa cultura che sta da una certa parte e che è impostata in una certa maniera, ma non è l'oggettività quello è un punto all'estremo di un altro estremo, ma non è al centro comunque questa opzione qua. E quindi anche quando, questo forse è una critica che faccio anche a me stessa, perché io ho fatto degli enormi sforzi per trovare questo centro, questo equilibrio che non mi facesse sbilanciare né di qua né di là con le mie opinioni. Però è un centro sfalsato, nel senso, un centro che mette sempre al centro una certa parte. Faccio un esempio più chiaro, a scuola ci davano dei testi scritti da pensatori di destra, ma senza dirci che erano di destra, quella era come bisognava comportarsi. E non è così, nel senso, quelli sono scritti da destra, ci sono quelli di sinistra, ognuno si faccia poi la sua idea. Sì, la formazione dei liberi cittadini è difficile appunto vederla nella scuola. La letteratura italiana, cioè la letteratura sociologica italiana, si è spesso detto che la scuola in realtà in questo forma sempre meno. Senti, a me viene in mente un'altra cosa un po', che è il ruolo degli adulti, cioè La cosa imbarazzante che deve fare l'educatore è che i tuoi coetanei o comunque quelli che appartengono al mondo degli adulti sono imbarazzanti spesso. Fai fatica a trovare nel mondo adulto, nella quotidianità di vita del mondo adulto, delle cose, quindi delle situazioni, delle azioni, delle opere per cui tu semplicemente indicandole puoi dire a un ragazzino: guarda, è così che si vive, è così che si fa, guarda che bello, no? Tutto sommato, la banale constatazione che se tu accendi la televisione, guardi qualunque telegiornale, il racconto del mondo adulto, che il mondo adulto fa a se stesso, è un racconto deprimente, imbarazzante, quindi poco. Allora mi chiedo, come riusciamo a immaginare un lavoro educativo che conduca i ragazzi a diventare adulti, laddove l'azione dell'adulto più visibile o comunque più riprodotta, più presente nel sistema mass media, è un'azione spesso di guerra, di violenza, di arroganza, di lotta per il potere, di egoismo e così via, di sopraffazione dell'altro, di mancanza di riguardo per le minoranze, di violenza dell'uomo sulla donna e così via. Cioè, come si fa a raccontare l'appetibilità o la bellezza o l'importanza del diventare grandi in un mondo di grandi così imbarazzante nelle sue manifestazioni? E quello che bisogna ricordare è che si può diventare grandi continuando a essere fedeli a se stessi, che non è poi così difficile, che ci si può riuscire e che essere fedeli a se stessi, ma quello che si sente davvero, perché secondo me è poi una capacità che si perde pian piano davvero crescendo, no? Se tu vai in una classe di scuola elementare e parli di ecologismo, penso che tutti i bambini sono ecologisti. Sì, è vero. E se, è facilissimo portare i bambini a essere sensibili, è facilissimo. E io penso che è poi questo conformismo, no? Cioè, se diventare adulto vuol dire diventare conformisti, è un po' peccato davvero, ed è quello che in generale comunque proponiamo, è diventare conformisti, diventare e rientrare nel buon gregge. E su questo non c'è solo la televisione, ci sono una serie di altre istituzioni che lavorano in favore del conformismo. E forse anche lì è difendere quei piccoli spazi di manifestazione di essere di se stessi dei ragazzi, valorizzarli, essergli accanto, notare che notiamo queste piccole cose che ci fanno piacere, e che forse una volta ci sono stati tanti grandi uomini che sono diventati famosi. Oggi forse possiamo essere tanti piccoli grandi uomini che non diventeranno famosi, ma che saranno fedeli al loro cuore, ai loro sentimenti, e non avranno la prima pagina del giornale né un'autobiografia pubblicata dall'Einaudi, però avranno fatto nelle loro piccole relazioni, saranno loro stessi a trovare la soddisfazione di un sorriso in più, di una stretta di mano in più. Sono i valori che anche tanti adulti che poi guardano gli stessi telegiornali li hanno ancora, quei valori lì. Sì, forse non li esercito. Però è vero che, per esempio, immaginare i centri giovani come una sorta di scuole della valorizzazione delle differenze, scuole dove si coltiva la propria specificità, dove si impara a non inseguire la fama, dove si impara proprio ad allevare il proprio specifico, dove si incontrano gli altri. Questa è una base, secondo me, molto importante che dicevi, dove incontri gli altri, che dovrebbero essere in parte, secondo me, quelli che pensano male del centro, pensano che lì ci vanno solo i ragazzi cattivi, e quello secondo me sarebbe importante, che si incontrasse, perché come sai nulla come trovarsi, soprattutto fra ragazzi, e fare una roba assieme smonta lo stereotipo, no? Basta giocare 10 minuti che cambi idea. Questa cosa mi sembra molto molto vera, cioè per quanto siano degli spazi non finalizzati e tutto quello che ci siamo detti all'inizio, in realtà sono degli spazi che perseguono una logica ben precisa, che è quella presa più di distanza dal conformismo, di valorizzazione delle differenze, di incontro dell'altro. Però sono come, sono quasi dei paletti che definiscono uno spazio, ma all'interno di quei paletti il disegno va ancora fatto, e va fatto dai ragazzi, magari accompagnati. Sono in fondo quelle spinte che anche per esempio per un animatore, per chi è dentro lì, probabilmente sono le spinte che tengono in vita la voglia di fare anche a lui, no? Sapere che lui ha questo slancio, ma che da questo slancio possono nascere tante cose che non sono previste a monte. Quindi questa cosa anche che dicevi dell'apertura all'imprevisto, l'apertura al desiderio, come apertura anche al non noto, a quello che non nasce da te, non è già scritto, non è già codificato in una legge, non è già messo in un referendum, insomma. Che è ricostruire anche un po' la fiducia. Che la fiducia è una fiducia anche fra, in parte fra generazioni, in parte semplicemente fra i nuovi arrivi e chi è già da lì da un po', insomma, chi è già al proprio posto nella società. E in questo effettivamente capisco anche la difficoltà degli adulti e la difficoltà in generale del mondo politico, delle istituzioni, che sono tipicamente molto codificate, molto definite, molto normate, molto quindi regolate da leggi, tendenzialmente rigide, laddove i centri giovani, in generale questi spazi abitati dai ragazzi, devono avere caratteristiche un po' antitetiche, quindi non codificate, non definite, non rigide e così via, per essere più abitabili. Vero è che c'è un bel salto da questa logica poi a quello che succede dopo, nel mondo del lavoro, nelle istituzioni, dalla logica del centro giovane dove coltivi differenze al conformismo che tocca vivere dopo. Quindi è una bella scommessa. In fondo è vero che se i centri giovani riuscissero ad alleare almeno la scuola, assieme magari, che so, alle associazioni sportive o altre situazioni che abitano i ragazzi, per formare in modo più coerente tutti quanti, secondo gli stessi principi di valorizzazione delle differenze, di solidarietà, di interesse, coltivare le passioni e così via, forse la possibilità di trasformare le istituzioni e la politica potrebbe nascere da una generazione che ha avuto maggiore linearità nell'essere in qualche modo convinta allo stesso modo di queste cose qui. Sai, una questione che si è sempre posta è com'è che il mondo è prevalentemente maschilista laddove sono le madri ad educare i figli? Com'è possibile che un bambino che è prevalentemente educato da madri, cioè da donne, diventi poi da adulto maschilista? La questione è anche un po' del passaggio, no? Che cosa succede una volta che ci si sgancia, per cui si perdono alcune cose che apparentemente erano state forse impresse nella fase più recettiva, che è l'infanzia. Cioè, io in questo senso vedo di più le stesse donne che trasmettono, per esempio, alle figlie dei comportamenti, delle strutture di ragionamento così, che le pongono in situazione. Cioè, è una dominazione che viene suggerita di madre in figlia anche. Io ho un po' di dubbi sul fatto che le donne educano i figli al non maschilismo, anzi. Cioè, è chiaro che è bello, no? Pensare, avere dei centri che permettano di crescere, che apri gli occhi. Dopo, queste persone con gli occhi aperti, cosa se ne fanno degli occhi aperti? Come se lo vivono? Nel senso, penso che sia piuttosto difficile vivere e sopravvivere in una società come la nostra avendo capito determinate cose. E non penso sia un caso, sarebbe interessante che facessero degli studi più approfonditi. La Svizzera è il primo e il secondo paese al mondo per suicidi, la prima causa di morte per i giovani ticinesi non è l'alcol, non è la droga, non è l'eroina, è il suicidio. mentre questa viene ridotta a questione di casa, famiglia e basta, individuale, magari sarebbe ora di approfondirlo come società, se la prima causa di morte è il suicidio. E mi piacerebbe vedere un po' cosa sta alla base di questi suicidi, perché se per esempio si va a vedere farmaci, psicofarmaci, chi sono i giovani che sono ricoverati in una casistica psichiatrica, la prima impressione superficiale, perché non c'è alcun dato che ti possa permettere di fare una simile, però sono i giovani che hanno una spinta a volare, che hanno una sensibilità elevata, che portano le magliette con la di anarchia, pullulano. O al contrario sono altri che invece sono sempre vissuti nello studiare e diventare dottori e basta. Cioè c'è un po' di tutto, è vero, però sarebbe bello approfondire queste cose invece di fare solo le ricerche sul cane. Sai cosa, io ho questa impressione che, diciamo, per aiutare in generale, ma per aiutare soprattutto questi ragazzi a trovare un posto nel mondo, visto che ci stiamo dicendo in qualche modo che la differenza e il tipo di reazione non conciliante con la realtà che hanno questi ragazzi è un elemento pregiato, proprio perché il conformismo non fa bene alle persone. Allora, io ho l'impressione che, in questo vedo anche l'azione dei centri giovani, il lavoro sia in qualche modo perdere in parte un velleitarismo, quindi una dimensione di cambiamento troppo ampia come a volte si può avere, quindi qualcosa su cui tu non eserciti il controllo, voler cambiare il mondo, per usare un'affermazione che ha un senso, però rischia di essere la promessa della frustrazione, e sperimentare assieme, in questo vedo l'accompagnamento, in questo vedo il lavoro anche territoriale micro, non macro, ma micro dei centri, sperimentare piccole aree di cambiamento, piccole situazioni di cambiamento, in cui a poco uno misura le proprie capacità, vede davvero trasformare le cose, e forse può un metro alla volta allargare la scala, e quindi se l'inizio è semplicemente il piccolo parco, lo skate park, su cui riesce a fare un'azione, poi diventa una dimensione magari comunale e chissà, a poco può cambiare di scala. Ma il meccanismo io credo sia quello proprio di accompagnare al processo di cambiamento e di trasformazione in cui i ragazzi sono protagonisti, si vedono finalmente realizzati in un'azione di cambiamento reale, non una dichiarazione, basta, su una dimensione che è controllabile, che è verificabile. In questo sta il mestiere dell'adulto. Per esempio, io ho l'impressione che una tendenza di ragazzi a non affezionarsi alla politica dipenda anche da come la politica restituisce una scala di cambiamento che è chiaramente fuori dal loro controllo. Per cui, se la democrazia è dare al cittadino il voto come strumento di cambiamento, in realtà tu da ragazzo capisci che qui c'è qualcosa di fasullo, perché con quel voto tu non riesci davvero a vedere trasformate le cose in una direzione desiderata. È più facile che la tua piccola associazione, il tuo gruppo, nel tuo territorio riesca a produrre qualcosa che ha questa valenza e quindi, diciamo, assume un valore politico. Ma l'esercizio del voto, a volte, per come sono i meccanismi politici, può essere più frustrante che realizzativo. Credo che, per esempio, i centri giovani abbiano questo potere di scuola di formazione politica in una dimensione particolare, che magari non è necessariamente quello del diritto di voto, ma è più quello di sperimentare spazi di cambiamento, situazioni di cambiamento in cui tu misuri davvero il tuo potere di cittadino. Cosa vuol dire essere cittadini? Mi piacerebbe fosse così. Mi piacerebbe che fra le tante cose ci fosse questo. Poi, a proposito di quello che dicevi tu prima, mi vengono in mente le minoranze, in genere la storia delle piccole comunità. Insomma, mi vengono in mente i valdesi, in genere con piccole comunità protestanti, quelle che, pur essendo minoranza, quindi di fatto per definizione, per numeri, non la religione principale, senza la maggior parte degli istituti di culto, tutte queste vicende che apparentemente li escludono, però proprio in quanto minoranza, molto orgogliosi, molto aggregati, molto coesi, molto in comunicazione gli uni con gli altri. Allora forse i centri, se noi pensiamo ai centri come piccole comunità di, per usare un'espressione molto nobile, liberi pensatori, in cui magari fuori è più difficile avere perfetta rispondenza a quello che si sperimenta dentro, perché fuori magari prevale il conformismo in alcune cose, però l'idea di tenere connessi i ragazzi, tenerli legati, fargli capire che, che ci sono altri che come loro stanno provando delle cose così singolari e non comuni, nei modi di divertirsi, nei modi di comportarsi, nel pensare il lavoro, potrebbe essere d'aiuto. Pensiamo anche a come, ok, c'è un fuori che dice che al centro vengono i peggio messi, quelli del centro anche loro ti dicono la stessa cosa, anche loro pensano di loro stessi che sono i peggio messi, quindi per loro l'aggregazione dei peggio messi, di tutti i centri, di tutti i peggio messi, di tutto il Ticino, è un concentrato, non è così auspicabile, non è valorizzante. Perché se tu fai parte di qualcosa di valorizzante che si aggrega con altre cose valorizzanti, facciamo una super cosa valorizzante. Certo, se è il contrario, no, ci se si è il contrario, su, perché c'è una festa dei centri di tutto il cantone. Però tu dici rischia di essere più un concentrato di... Ma perché poi non è così, però vedi anche loro, cioè, che ti dicono quelle cose, tu provi a dirgli, cioè, ma... No, però per quello che siete belli, nel senso. Esatto, probabilmente è vero che bisogna fare un lavoro sulla valorizzazione. E poi sai cosa, secondo me bisognerebbe anche, perché secondo me è importante, fa parte della logica del mentoring e lo racconta molto bene Richard Sennett in Rispetto, nel libro Rispetto. Richard Sennett dice proprio questa cosa, racconta di quando lui, giovane di questo sobborgo di Chicago, aveva vissuto proprio in una parte peggiore della città, poi c'era tornato, e erano serate di mentoring, e le serate di mentoring erano serate in cui, di fronte alla platea di ragazzini, più o meno disperati e condannati apparentemente per la loro posizione sociale, all'emarginazione, venivano, c'era una galleria di persone, che erano persone o normali o magari anche di successo, che venivano esattamente da quel sobborgo lì, e raccontavano in una serata che cosa avevano fatto per aprire presenti alternativi possibili. E questa cosa era molto potente verso ragazzi, per cui tu dici, vedi uno come te che diventa qualcosa che non è il destino ineluttabile e nero, no? È grigio, nero che uno ha in mente. Però Sennett dice lì una cosa secondo me importante, confronta la testimonianza di una segretaria con la testimonianza, se non ricordo male, di un medico di successo, e dice che dei due quella che aveva funzionato forse meglio era la segretaria. Perché? Perché il medico era troppo distante, era diventato una figura evidentemente non più alla tua portata, facevi fatica a proiettarti lì, mentre la proiezione sulla normalità della segretaria funzionava già di più. E lui dice un'altra cosa di sé, lui suonava il violoncello, raccontò della sua esperienza di musicista jazz e violoncello, questa cosa non aveva catturato molto l'attenzione, anche se io oggi credo che una testimonianza di professioni artistiche rispetto a un gruppo di ragazzi come possibile traguardo sia molto potente come orizzonte di pensiero per tirarsi fuori e dire beh non sto così male, non sono escluso dal bello della società. Ma lui dice una cosa interessante, forse avrei dovuto raccontare più che delle mie esperienze di musicista e basta, raccontare di quella volta che mi feci male alla mano e stetti bloccato col mio dolore alla mano. Perché? Perché il racconto dell'handicap, del dolore, della propria sofferenza, della propria impossibilità avrebbe probabilmente guadagnato più attenzione e risonanza rispetto a semplicemente la fotografia bella e pulita del violoncellista. Allora, per esempio, mi viene da pensare che quei ragazzi bisognerebbe giocare delle scommesse di presenti alternativi possibili, se tu ti percepisci come escluso, come cioè uno che è lì oggi cosa fa? Uno che era lì ieri oggi cosa fa? Secondo me anche questo dipende un po' dal contesto, no? Perché cioè, io capisco, non so, ho visto i Grand Frère nella Svizzera francese che venivano da Parigi, che è un po' questa cosa qua. Però io quello che trovo è, cioè, che rischio è comunque dire, vedi, ce l'abbiamo fatta anche noi a diventare come loro. Non lo so, per me sono belli, anche perché sono belli così, perché sono davvero belli così. Abbiamo parlato dei centri giovanili, dei giovani, diciamo qualcosa anche su questi adulti, perché secondo me una, un qualche problema ci può essere anche problema, perché difficoltà anche nel mondo adulto, che non so se sta tanto, perché le istituzioni forse non hanno una chissà che grande volontà di fare qualcosa, però al contempo vivono la pressione di perlomeno una parte della popolazione, che è la parte che al contempo è più distante dai giovani, quindi si ritorna al fatto che non si conoscono, e quella parte lì dipinge i giovani come terribili, quindi non vuole nemmeno dargli un centro giovanile, stiamo parlando di un centro giovanile con animatore, crea problemi in Ticino, creare. E trovo che anche lì, non so, tornando al discorso che abbiamo fatto adesso, è la grande difficoltà di dire le mezze verità. Cioè, ho questa tesi, nel senso c'è dentro più o meno tutto. Forse ha omesso di trattare un tot di cose, ha omesso di chinarsi sull'evidenza che gli adulti che lavorano con i giovani, che lavorano perché sono docenti, perché sono al capo di un dicastero giovani, perché ci fanno ginnastica assieme, sono stati intervistati e ti dicono il centro giovanile ci vuole, tra cui anche un municipale del municipio. I giovani ti dicono un centro giovanile lo vogliamo, la domanda non dovrebbe essere analisi del bisogno, in fondo è stata una domanda ipocrita dal primo momento, la domanda deve essere perché non c'è ancora un centro giovanile a Giugliaro? Perché? Io in genere vedo che i centri giovanili spesso vengono visti come luoghi ricreativi, e quello che si dice è che le forme di creazione ormai sono tante e gli spazi per poterlo fare potrebbero essere tanti, quindi non c'è bisogno che il soggetto pubblico o l'ente pubblico ne faccia uno e costruisca uno. In fondo uno può andare al cinema, in discoteca, al centro commerciale, insomma in vari posti a divertirsi. Quindi questa è la principale obiezione. In questo di fatto è quando non si riconosce la funzione educativa del centro giovani. L'altro tipo di distorsione che io ho visto sempre nel mondo adulto è in qualche modo contraria a quella, cioè che tende a vedere nel centro giovani un luogo per controllare i gruppi o i singoli della città, del territorio più evidentemente pericolosi, ribelli, minacciosi. Allora costruire un centro significa di fatto collocare questi ragazzi in un posto dove si possono controllare, si sa che sono lì, e speriamo magari che l'educatore riesca a stemperare, cioè a sciogliere un pochino le energie fuori controllo. E questi sono un pochino i due estremi, per cui le due fantasie in qualche modo negative che stanno all'origine del rapporto con i centri giovani. In realtà la domanda su cosa fare di un centro secondo me resta importante, il fatto di chiarire tutti perché gli adulti lo vogliono. Perché i ragazzi magari lo vogliono come riconoscimento del fatto che esistono, e quindi questo è un modo per dire, per noi è simbolico, cioè, poi magari lo usano, magari no, però è un riconoscimento della propria esistenza, e per gli adulti magari può essere un riconoscimento del fatto che loro si sono occupati dei giovani, e quindi simbolico in modo perverso magari a sua volta. Io ho l'impressione che ci sia negli adulti un po' di paura sulla trasformazione dei ragazzi e in generale su quello che i ragazzi possono fare oggi. Perché? Perché in parte, come sempre è successo, in parte forse più di quanto è successo prima, ci sono degli elementi di trasformazione della vita quotidiana, penso soprattutto al rapporto con le tecnologie, a nuove forme di comunicazione, in cui gli adulti sono tagliati fuori e i ragazzi sono più abili a muoversi. Io incontro sempre più adulti che sono spaventati, terrorizzati da questa cosa di essere predigitali, di essere fuori da un mondo e di non capire se i ragazzi stanno lì costruendo la bomba atomica o semplicemente annoiandosi, se stanno complottando e ordinando eroina via posta o semplicemente stanno mandando una cartolina con un bacio alla fidanzata. E allora io vedo in questo, negli adulti, spesso una paranoia di conoscenza, di una richiesta molto forte, no? Di interpretazione e di codifica, e dare un luogo serve a codificare. Sono lì, fanno quello che avviene lì e intanto io sono tranquillo. È uno strano rapporto quello degli adulti, perché da un lato sono in difficoltà e hanno bisogno sempre di più di capire, di codificare, e dall'altro gli adulti stessi sono sempre più giovanilisti nei comportamenti. Questa è roba un po' patetica, un po' ridicola, cioè contemporaneamente tu hai un atteggiamento che spesso è stigmatizzante nei confronti dei ragazzi, ma contemporaneamente ha su di sé la limitazione di quello che si ritiene bello di quella fascia, di quell'età, e quindi sostanzialmente tutte le trasformazioni del proprio corpo, del proprio aspetto, che tendono a scontarsi degli anni, a dimostrare meno anni. E quindi mi sembra che il tema dei ragazzi, del rapporto con i ragazzi, in realtà tradisca molto questa cosa della difficoltà degli adulti a essere adulti e di una sorta più di adolescentizzazione degli adulti e in parte di un'adultizzazione dei ragazzi e delle ragazzine, soprattutto in una sorta di rincorsa a essere un po' più grandi, un po' più formate, un pochino più in grado di competere nel mercato dello sguardo e delle attenzioni collettive. Ma più forte mi sembra il primo, cioè più forte clamorosamente mi sembra proprio lo strano disorientamento degli adulti, presi fra l'ossessione di capire e decodificare con forti rischi di stigmatizzare e intanto negare la proprietà, rincorrendo esattamente quelli che si vorrebbero un pochino così bloccare, inscatolare. In Italia poi questa cosa è clamorosa, perché è esattamente il presidente del Consiglio che la fa. Insomma, comunque questo non è tanto lui, ma è il sogno collettivo che lui esprime, quindi è una fantasia maschile collettiva, è una sorta di legittimazione di comportamenti collettivi che passano appunto per rapporto con la chirurgia estetica, i rapporti di età all'interno delle coppie. È un processo grosso, non è banale. Le figli seguono l'abbigliamento, le madri seguono l'abbigliamento dei figli, cioè del figlio, bello, cioè, non se ne esce più. In questo caos mi rendo conto che nemmeno è facile crescere, cioè non è neanche facile crescere, ma i bisogni